alcuni sono progetti che sono stati riesumati dai cassetti delle scrivanie, altri sono progetti completamente nuovi, oppure come nel caso di SNAM e dei due rigassificatori che sta pianificando per la Sardegna, sono progetti che erano stati proprio bocciati da una valutazione costi-benefici fatta nel 2020 e che però l'azienda non ha nessuna intenzione di mollare, per cui eccoli di nuovo in auge. Fino adesso in Italia abbiamo sentito parlare dei rigassificatori, tra l'altro nella nostra regione, in Emilia-Romagna, Ravenna ha appena ottenuto il via definitivo, appunto, quel progetto, quindi non ci sono solo rigassificatori ma anche dei veri e propri gasdotti? Esatto, noi quelli che abbiamo mappato solamente appunto tra l'Italia, la Spagna e ci siamo un po' allargati fino all'est mediterraneo. Sono 5 rigassificatori e 5 gasdotti. L'intenzione nostra nel pubblicare questa grafica, che un po' fa il quadro della situazione, è proprio quella di lanciare una sorta di alert, perché almeno per quanto riguarda l'Italia la situazione è molto fluida, nel senso che sono progetti che hanno l'ok del governo, che SNAM vuole realizzare e che adesso potrebbero candidarsi a ricevere finanziamenti anche attraverso lo stesso PNRR, che viene rivisto appunto in questi mesi, entro il mese di dicembre verrà rivisto in chiave Repower EU. Quindi in sostanza potrebbero essere fondi dedicati alla ripresa, che però nella situazione attuale, appunto, in cui l'emergenza è diventata oramai la regola, l'emergenza stessa viene utilizzata per dire ok, avevamo dei principi cardine che volevano vincolare la ripresa dalla pandemia alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, li mettiamo un attimo da parte perché c'è la guerra, c'è l'emergenza gas, eccetera. Potrebbe andare così e l'Italia deve presentare entro dicembre la lista rivista, diciamo, dei progetti che vuole includere nel PNRR. Tra l'altro, extra da questa mappa, ma l'Unione Europea adesso sembra ammiccare anche alla possibilità di produrre idrogeno blu, quindi da combustibili fossili, e quindi di nuovo bisogna tenere gli occhi aperti anche sul deposito CCS di Ravenna. Ma la cosa più drammatica di questa situazione è che sono tutte misure, in questo caso infrastrutture vere e proprie, che vengono proposte come temporanee e necessarie ad affrontare la crisi di oggi, invece si tratta di vere e proprie infrastrutture che avranno un impatto nel lungo termine. Quindi la storia di Piombino, del rigassificatore di Piombino, è abbastanza esemplare, perché ci ha fatto capire che il tipo di concessione che stava chiedendo SNAM non era un permesso temporaneo per ancorare appunto una nave rigassificatore deposito nel porto, ma era una concessione di 25 anni. Quindi la stessa cosa vale per gasdotti che devono essere costruiti da zero e che quindi per forza devono avere una vita di almeno 15-20 anni. Ed è importante rendersi conto che non si tratta di progetti singoli, ma vanno guardati nel loro insieme. Fuori dalla nostra mappa ci sono circa 12 rigassificatori nuovi presentati nella sola Germania, quindi il resto dell'Unione Europea è un'esplosione di progetti di grandi infrastrutture nella stessa misura del Mediterraneo, e ogni paese vuole diventare la nuova porta del gas, no? Quindi per noi il focus ovviamente è nella regione in cui viviamo, però la stessa narrazione viene proposta ovunque, e l'unica azienda che sta traendo beneficio da questa situazione è proprio quella delle imprese che costruiscono queste grandi infrastrutture e trasportano il gas su lunga distanza. Quindi nel caso nostro SNAM è Enagás in Spagna, che appunto è partner di lunga data di SNAM. Quindi potremmo dire sostanzialmente che le rinnovabili, se già non sembravano prese in considerazione in modo adeguato prima, in questo modo verrebbero completamente abbandonate come possibile alternativa per la transizione energetica. Probabilmente, come spesso accade, per tenere un po' tutti contenti ci saranno anche dei finanziamenti dedicati alle rinnovabili. Il problema è che tutti i finanziamenti che verranno dati a queste nuove infrastrutture per il gas sono per progetti di lungo termine, e questa è la cosa fondamentale che sfugge un po' agli occhi di tutti. Sono anche progetti che in qualche maniera ci dicono che sicuramente fino al 2050 utilizzeremo il gas al massimo possibile, e chiaramente quello che vogliono tutte le società che estraggono gas e che trasportano gas, e quindi vedono questa scadenza, diciamo che è un po' quella degli impegni per il clima presi dall'Unione Europea e da tutti i governi europei, come una, diciamo, una data ancora molto lontana, per cui fino al 2050 si può fare quello che si vuole. Diverso sarebbe se oggi il grosso delle risorse venissero dedicate allo sviluppo delle rinnovabili e soprattutto a una revisione dei bisogni e quindi della domanda reale, ma anche, diciamo, in un quadro complessivo che guarda proprio in avanti. Se bisogna uscire dall'economia delle fossili, perché è la stessa economia che ci ha messo in questa situazione drammatica, inclusa la dipendenza dal gas, allora bisogna iniziare a rivedere proprio l'intero modello energetico e produttivo. Nel fare questo, chiaramente le rinnovabili sono una risposta, ma dipende da come le sviluppi e soprattutto se la visione è quella di un phase out reale. Oggi quello che vediamo noi è che non c'è questa visione di phase out reale, al contrario la crisi che sicuramente tutte le famiglie italiane stanno vivendo e tutto il settore produttivo italiano sta vivendo, viene utilizzata per proporre situazioni che non miglioreranno la nostra situazione nei prossimi anni. Cioè, se il prezzo del gas è alto oggi, sarà alto anche il prossimo inverno, e il prossimo inverno saremo nuovamente in una situazione in cui magari avremo dei contratti a breve di gas che potrebbe arrivare anche via mare, ma a che prezzo? Cioè, chi lo potrà pagare e chi continuerà a fare profitto da questa situazione? Oggi quello che serve è fermare lo sviluppo di tutti questi progetti, proprio per evitare di trovarci in una spirale di dipendenza e di costi altissimi del gas che nessuno potrà pagare, quindi non potrà che peggiorare la situazione complessiva che stiamo vivendo, incluso l'impatto sul clima e sull'ambiente, che comunque genera dei costi, e guarda caso chi li paga non sono sicuramente le grandi corporation, che invece continuano a guadagnarci.